Essendo il terzo c'è un lavoro alle spalle che viene messo a frutto. E al terzo sciopero noi ci troviamo di fronte a un movimento globale che ha dimostrato di essere espansivo anche, diciamo, dopo diversi anni e che continua ad allargarsi. Quest'anno in Italia in tutte le città ci sarà lo sciopero, tutti i sindacati di base hanno indetto lo sciopero e quindi garantiscono la copertura sindacale. I sindacati confederali non l'hanno fatto, ma un appello di delegate e di lavoratrici sta girando e raccoglie centinaia di firme, e questo ci ha permesso anche di andare nei luoghi di lavoro, nelle aziende, nelle fabbriche a fare l'assemblea e quindi a raccontare che cos'è lo sciopero femminista e invitare alla partecipazione le lavoratrici e i precari. Dico i precari perché questo sciopero è sì uno sciopero femminista, ma non è uno sciopero separatista. Questo significa dire che questo sciopero vuole contestare il patriarcato e quindi la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, ma lo fa conscio del fatto che questa violenza sostiene lo sfruttamento e il razzismo che opprimono tutte e tutti. In particolare in questo momento, con le politiche razziste, con le politiche di impoverimento che questo governo in linea con quelli europei sta portando avanti, le nostre rivendicazioni, quelle che noi abbiamo elaborato nel corso degli ultimi 3 anni e che hanno trovato una loro prima forma scritta nel piano femminista contro la violenza, sono appunto emblematiche di un'analisi politica che noi abbiamo fatto e che si oppone radicalmente alle politiche che stanno mettendo in atto. Queste rivendicazioni sono in breve innanzitutto un reddito di autodeterminazione che si distingue nettamente dalla proposta di reddito che adesso è stata attuata e che sembra invece voler fare espiare la colpa della povertà a chi questo reddito può riceverlo. Un reddito di autodeterminazione è invece un'occasione per scegliere liberamente, autonomamente della propria vita, quindi liberarsi dalla violenza ma liberarsi anche dallo sfruttamento e dal razzismo. Inoltre, di fronte a quella che ormai un processo inarrestabile di smantellamento del welfare e dei servizi, noi abbiamo fatto un'analisi sul salario e sul welfare come campi di battaglia in cui ripensiamo la libertà e l'autonomia a partire da un salario europeo e da un welfare europeo che sia universale, che quindi non riproduca privilegi, che non riproduca gerarchie e divisioni come invece i governi delle destre conservatrici, reazionarie e neoliberali europee non solo stanno facendo. Infine, una rivendicazione, un campo di battaglia per noi molto importante è quello del permesso europeo incondizionato. Quando diciamo incondizionato ci riferiamo al fatto che deve essere slegato tanto dallo studio, dalla condizione di studio, dalla condizione di lavoro, quanto dal matrimonio, perché spesso per le donne migranti avere un permesso per ricongiungimento familiare significa non poter divorziare, non poter scegliere autonomamente della propria vita, anche in condizioni di violenza. Per cui avere un permesso che ti permetta di essere autonoma, di decidere se muoverti o se restare in piena libertà, fa la differenza ed è per noi appunto un punto politico centrale. Non è l'unica parte dello sciopero dell'8 marzo, ma c'è una parte importante che citavi prima, che è quella dello sciopero produttivo, quindi appunto quello più classicamente inteso. C'è stato un percorso di avvicinamento in questo senso anche all'interno delle fabbriche, dei posti di lavoro, com'è andato? Sì, noi ormai da mesi abbiamo fatto delle assemblee, organizzato delle assemblee insieme alle delegate disponibili, alle lavoratrici disponibili a organizzarle, dove appunto in aziende le più diverse, dalle aziende metalmeccaniche alle case editrici fino alle aziende informatiche, è stata messa, diciamo, sul piatto una discussione sullo sciopero femminista in cui abbiamo potuto chiedere che questo sciopero è uno sciopero per tutti, che questo sciopero è uno sciopero effettivo, perché noi non riconosciamo più la differenza tra uno sciopero per le condizioni sociali, uno sciopero politico e uno sciopero vertenziale. Questa differenza ormai è assolutamente inutilizzabile e inutile. Questo lo dimostra la crisi che il sindacato ormai da anni sta in cui si trova. Noi abbiamo tolto, diciamo, il monopolio sindacale allo sciopero, lo abbiamo risignificato, e dentro alle fabbriche, dentro alle aziende, questo discorso ha una sua potenza, perché tutti possono schierarsi contro la violenza maschile e di genere e trovare nello sciopero dell'8 marzo un'occasione per rifiutare la propria condizione di precarietà, la propria condizione di sfruttamento e soprattutto quella che lega lo sfruttamento al razzismo e che riguarda il lavoro migrante in toto, in particolare quello delle donne, che viene spesso svolto in condizioni di isolamento e con ritmi di lavoro particolarmente faticosi. Per questa ragione, proprio su questo tema, noi quest'anno cercheremo di portare in piazza le voci e la voglia di scioperare che queste donne che lavorano soprattutto nella cura, quindi nelle case o negli ospedali o nelle strutture, non potendo scioperare vogliono però esprimere. Cioè tutte coloro e tutti coloro che non avranno la possibilità né tecnica né materiale, perché da questo punto di vista la precarietà impedisce lo sciopero anche in questa misura, potranno quella mattina essere presenti con le loro parole. Noi le trasmetteremo al microfono nella mattina dell'8. So che appunto è una chiamata che ha un po' attraversato i sindacati, nel senso che è stato proclamato lo sciopero dell'8 marzo dai sindacati di base, non da quelli confederali. federali, come dicevi. Intanto chi potrà scioperare e poi come si farà effettivamente per chi non può a mandare la propria voce in piazza? Sì, innanzitutto ricordiamo che in Italia lo sciopero è un diritto costituzionale, quindi tutti possono scioperare anche singolarmente. È chiaro che questa condizione mette in una posizione di debolezza in molti luoghi di lavoro in cui il ricatto e lo sfruttamento sono alti. Però, essendo che tutti i sindacati di base hanno indetto lo sciopero e quindi garantiscono la copertura sindacale, tutti, anche i non iscritti, anche gli iscritti alla CGIL, alla FIOM e quindi ai sindacati confederali che non lo hanno indetto, potranno scioperare in sicurezza, perché l'indizione c'è, la copertura sindacale c'è e sono arrivate le comunicazioni di questa indizione in tutti i luoghi di lavoro, nel pubblico e nel privato, per cui la possibilità di scioperare è assolutamente sul piatto. Sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro blog trovate un vademecum in cui si spiega come scioperare, soprattutto in luoghi di lavoro in cui magari non ci sono state assemblee, quindi non è chiaro come ci si può organizzare per la mattina dell'8.